attenzione, attenzione, Houston, Houston chiama canale 10, cambio. Houston, Houston chiama canale 10, cambio. Canale 10, canale 10, se andate a copiar qua la luna, cambio. Che è l'unica squadra che a livello europeo può andare avanti, quando è in Coppa ti fa lì. Beh, è normale. Chiappa. Allora, Robe, non sei parato oggi, Iosso, a Platamona? Beh, volevo scendere, poi non avevo voglia, volevo fare altre cose che poi non ho fatto, ma adesso devo andare a fare qualcosa, ma roba veloce, però no, non ne avevo voglia di come. Questi due giorni mi sto dedicando al riposo, ma ieri, quando è che cosa era ieri? Non mi lamento nemmeno cosa ho fatto ieri, boh. Se sono andato, sì, ieri sono andato a cosa, a delle cascate, bello, un bel posto. Andi! Vicino a Marti ci sono, cascate belline, vicino, si può andare tranquille. Bello. Io vorrei Babona, così. Sì, bella, si può anche bere l'acqua. C'è l'acqua, è potabile naturalmente, è fresca, però diciamo ce n'è di meglio, tipo li rimane un po' ferrosa come acqua a me. Vabbè, però già va bene, sono un po' di protetti quelle. Sì, vabbè, ce ne sono anche altre cascate in altre parti, ma questa è la più vicina di tutti, è l'unica che funziona anche d'inverno, d'estate dico, perché ce n'è una vicino a Palmadula che non ci sono mai andato, però d'estate si secca, poi c'è un'altra a Valle Luria che non sono mai andato, lo stesso che si secca, devi andare nel Nuorese se vuoi trovare acqua anche d'estate. Coso, Foresta Burgos, quella è bella. Sì, lì ci sono, quella di Coso che c'è vicino a Palmadula si chiama... non me la metto nel manco, però è un rio piccolino, una pisciata, non è neanche un coso, questa invece ci sono 15 metri di coso, ti puoi fare anche il bagno mi se vuoi, ieri è che non avevo roba appresso, se no me l'avevo fatto, leva e ghiacciata. Allora, mi chiedi proprio di tipo nero coso, ti viene se c'ha pane con i pinguini. Guarda, io me la sono fatta in Corsica, che l'acqua tu se mettevi i piedi non ti sfidava a farci più di 30 secondi, perché era talmente fredda, 3 gradi era, qua sarà intorno agli 8 gradi, penso, 8-10 gradi. Se non ti trattieni troppo già si può fare, perché per dire, ti immergi, ti fa la nota, trattenisci. Quella della Corsica era ghiaccio, tu come che tu c'hai i blocchetti di ghiaccio sotto il piede, era una cosa spaventosa. Era una sorgente naturale pure quella. Ma eri a 2000 metri di altezza, non eri a, come ti dice, sei a quanti metri sarà a Marte, si fa che sia a 500-600 metri, dai. L'acqua non è gelida, nel senso è fredda sì, però non è proprio ghiacciata, ma quella della Corsica era proprio, mamma mia, neanche i piedi potevi mettere, infatti io mi sono tuffato, era un paio d'anni che me la tentavo, ho detto voglio provare, perché quei tedeschi si buttavano, quelli non temono niente, ho detto cacchio è troppo bello qua, l'acqua limpida, pulita, il fondo senza un coso, perché era tutto in granito, non c'era, vedete queste cascate qua, l'acqua non lo vedi, è turbida al fondo, dove ti fai il bagno nel laghetto, perché è turbida, c'è vegetazione, dai. Però di là era proprio limpida, limpida, ero minimo 3-4 anni che dicevo mi faccio il bagno, però alla fine ha detto, mi ha fatto il segno della croce, mi sono buttato, proprio buttato e uscito, neanche un secondo, tre secondi. secondi è durato il bagno perché era gelida. Hai fatto aiuto, aiuto, cazzo. Sì, ma lo sapevo che era così, cioè, perché era troppo... Ho tuffato, ecco, mi ho tuffato subito uscito, non è che mi sono messo a nuotare, perché avevo paura mi prendessi un colpo, perché c'era troppo caldo fuori, ho detto, cazzo, mi sono 35 gradi fuori, nell'acqua ci sono 3 gradi, c'è uno sbalzo termico impressionante. E allora ho detto, esci a vedere, uff, mi sono buttato e salito. Buona quell'acqua lì. Oh, in Corsica l'acqua è tutta buona, non è niente da dire, tutte le fontanelle in qualunque paese, mentre qua in Sardegna ci sono punti che l'acqua è troppo ferrosa, c'ha un sapore un pochettino strano, anche se è potabile, non è niente di granché. E c'è, perdona, se vai nel Nuorese, cavolo, di lì sì che c'è la sorgente proprio da Gennargentu, quelle pozze lì l'acqua è buona, a Oliena se vai è buona, però qua siccome le fonti fanno troppa strada, magari come rascano tolgono anche delle sostanze dalla pietra, non lo so, magari diventa un po' pesantuccia. Poi, no, ma io l'avevo bevuta lì a Bono, nella, quei pozzi lì, nel Nuorese, ma è tutto un altro sapore. Adesso diciamo, quando sei in alto l'acqua è più pulita, se fa troppo tragitto, questa fa troppo percorso, probabilmente per quello che si porta appresso tutto il terriccio, le cose, gli danno un sapore un pochettino ferroso, tipo l'acqua di tempio, molte volte, secondo me vai in qualche sorgente, la senti pesante, forse che io sono abituato a bere l'acqua mia a casa, gusto non è proprio il sapore quell'acqua, però poi quando bevi un'acqua in bottiglia ti rendi conto della differenza. Ma non sai mai che c'è un depuratore, vai. Io c'ho un depuratore da tanti anni, non ne compro mai, quando vado al coso, magari vai col camper che esce, mi prendo qualche bottiglietta, me la porto appresso, me la metto in freezer, solo mi riempio sempre le bottiglie io a casa, io bevo sempre da rubinetto col depuratore, ma l'acqua è eccezionale. Quando assaggi le altre acque ti rendi conto la differenza, anche l'acqua buona, San Giorgio, quelle che noi diciamo buone, ti accorgi che hanno un saporaccio. Ma io l'ho bevuta l'acqua così, ma non sa di niente, non sa. L'acqua, non quella, aspetta un attimino, io ho quello con i carboni attivi, non ho l'altro, quello col coso, osmosi inversa, con l'osmosi inversa gli toglie tutti i sali e non serve a niente, è come stai bevendo acqua distillata. No, no, l'acqua mia, non per vantarmi, io ce l'ho tanti anni, cioè avrò 15 anni, è eccezionale. Tutti che la assaggiano, io gli faccio la prova di caio, gliela metto a temperatura fredda, non gliela do calda, e dico assaggia questa e poi portami qualunque acqua, e tutti dicono non c'è confronto, è molto più buona. Sì, sempre acquedotto alla fine. Vabbè, è tutta quanta depurata, però. Allora, nell'acqua di acquedotto, a meno che non sei in zone basse di Sassari dove ci sono tubature rotte, magari c'è qualche officina che scarica olio o qualche sostanza che te la inquina. Io sono abbastanza vicino al purificatore, al potabilizzatore, vicinissimo a me, tutte le tubazioni sono nuove, per cui sono sicuro che l'impianto è migliore. È la migliore acqua che c'è in commercio, neanche si avvicina all'acqua potabile del rubinetto. I valori sono perfetti, sono fatti tutti col macchinario, regolano tutti i valori. Noi siamo pensati a Bigliare, va in bottiglia, acqua San Giorgio. Io ho sempre bevuto acqua San Giorgio, adesso c'è Boschetta, Rocchetta, e sono tutti brizzisi, Federica, Giulia, è sempre la stessa acqua di pozzo, di acqua di sorgente. Ma tu l'assaggi e poi vedi, bevo l'acqua mia e dico un'altra cosa. Cioè, stai bevendo tipo aranciata con acqua di rubinetto, due gusti diversi. Io sono andato a Siliqua, l'acqua San Giorgio, lo so dove. Sì, ma Antu, prima l'acqua San Giorgio la prendevano la sorgente, siccome ne producono talmente tanta, ne buttino talmente tanta, non ce la fanno più con la sorgente, allora devono fare i pozzi e la prendono dal pozzo l'acqua, così sarebbe impossibile gestire tutte quelle bottiglie, perché ci sono 4 o 5 marchi, c'è la San Giorgio, quella ufficiale, e poi ci sono tutte le sottomarche che le vendono, una le Spin, l'altra la Lido, l'altra la Carrefour, l'altra all'altra di Alacona, e ci sono 4-5 marchi oltre la San Giorgio, ed è la stessa identica acqua, se tu leggi fonte di Zinicas, eccetera eccetera, è identica, solo che prima la San Giorgio la prendevano la sorgente, perché se tu vai a San Leonardo, la migliore acqua che abbiamo in Sardegna è l'acqua di Sette Fuentes, di San Giorgio, San Leonardo, ed è molto simile a quella che bevo io, te ne accorgi, è proprio un gusto pulito, non c'ha gusti di altre cose. Poi smetti la San Giorgio, senti un po' di differenza. San Giorgio è abbastanza buona. Vabbè, ma so, però quelli sono sorgenti che scorrono sempre. Se devo vedere se ce l'ha anche cosa, c'è anche lo spincelamme. Le bottiglie quelle più piccole. Ma qua c'è per Fuentes, non detto da me, detto da produttori, la gente che si occupa di pozzi e cose, è la migliore acqua che abbiamo in Sardegna. È l'unica acqua che si avvicina all'acqua potabile di rubinetto, parliamo come valori. Poi tutte le altre che bevono San Martino, sono tutti tanti, mamma mia. Tu la bevi a San Martino perché la senti un pochettino salattuccia, bello il gusto, ma è un'acqua, mamma mia. C'è tanto di quel studio, se tu bevi quella lì in un paio d'anni ti prendi dei calcoli renali che manco dovrei accusi. Poi non parliamo di tutte le altre acque che ci sono in circolazione, ce n'è una marea. L'unica acqua buona in Italia, buona, nel senso come qualità, è la Sant'Anna, però costa un po' di soldi, la danno ai bambini piccoli, cose del genere, però dagli ampizzini l'acqua San Martino aveva da risuccedere. Cappa, io a San Martino, poca niente proprio, ditemi che è mara. Meglio e meglio grazie a Santa Lucia, forse un po' meglio. Allora, come qualità di acqua, Santa Lucia è molto meglio, perché i valori sono più bassi del sodio e del residuo fisso, è molto migliore, però anche quella non è una grandissima qualità di acqua, solo che la gente piace, anche a me compreso, San Martino, perché rimane quel gusto un pochettino salattuccio, dai, per dire, ti bevi l'acqua blu, che è migliore come qualità, e poi dici, la verità fa schifo, sembra esci da mare, mentre San Martino c'è una tante le quantità di gas, adesso la fanno anche in lattina, non l'hai vista l'acqua San Martino in lattina? No, la fanno della birra. Pure la birra, poi la bottiglia in vetro la fanno scura, quasi nera, e poi ci sono le bottiglie in plastica, hanno cambiato tutto lo stabilimento, l'hanno tutto rimodernato, è uno dei migliori a livello di tecnologia d'Europa, anche se la destra magari ce ne sono molto più grandi, però a livello di tecnologia, di cura della qualità di produzione, è uno dei migliori d'Europa, c'ha tutti i macchinari nuovi. Già lo so già. Ma comunque anche la cosa, anche la smeraldina non è male. Andiamo, che? A Lucariello, sì, smeraldina, ma sono sempre acquette così, niente di eccezionale, cioè ai bambini non gliele puoi dare quelle acque, cioè le puoi bere tranquillamente tu, ma per i bambini non è che vanno tanto bene. Vai altro per Luca. Beh, Luca, buonasera. Ciao Robert. Eri già arrivato, sì, Antu? Sì, sono già qua, da un po'. Noi siamo andati via verso le... che erano? Le 7, tra una cosa e l'altra, luce e tutto, ancora siamo qua. Abbiamo appuntato con un paio di amici che di Porto Torres, che c'è festa qua. Allora siamo al mare, Luca? Siamo al mare adesso? Metto c'è festa al mare. No, qua la pedoccia. Ah, c'è concerto? Musica sassarese qua. Non lo sapevo. L'altro giorno c'era qua vicino, c'erano quelli tre sardi, non so se l'avete mai sentito nominare, Valle dei Muri. E dopo roba. In piazza dove ci sono i vigili del fuoco, l'hai visto giù, c'è per variante, c'è una specie piazza Moretti, mi pare si chiama, lì l'hanno fatto l'altro giorno, un po' di tempo fa. A pagamento? No, a gratis era. Ah, non sapevo niente. Le mai visti, tu fanno morire, sono troppo tuvi, i fratelli Graziano. Li conosco io li conosco, ma non bene non. Di più. Anche per arreggare bombole al locale in occhi. Un attimo di bianco. Allora, quelli lì, a parte che hanno una preparazione allucinante, sono i numeri uno secondo me, sanno cantare, suonare, adesso stanno studiando i tenores di Usi, non so di che po' di Uri, non mi ricordo che paese sono, perché fanno gli sketch facendo la musica in sardo, si mettono a cantare, ma sono mostri, ho visto certe scene da cacchio, bravi cantando e suonando soprattutto. A me lo dico, li conosco bene, li conosco, non bene no, di più. Hanno troppo ridere quando fai il gandarino, l'hai visto che si mette con la bocca, fa... lo senti con la bocca? Ha fatto un po' con il resate, vai, fone su Facebook, un chiaro notturno, cazzo di bici dalle resate. Quando ha fatto, adesso vabbè, quando c'era Nicola Sanna, il sindaco, hanno fatto Nicolino bicicletta, hanno fatto a Porto Torres il programma, ma Catania Villa da Barbondo, raccontando perché la pista ciclabile era arancione, me arancione, color melanzana, dite amico, se mandati alla cosa, la, come si chiama, la bricca, come mi avevo comprato, la zinta, l'amico mio va via la busta, chi ne aveva curato le melanzane, non so dopo gli è caduta dentro, dici tu che su curore, che ride. Non so già, non so la storia. ti stavo dicendo, lei questi nuovi sketch, io ho comprato anche la maglietta, chiaro notturno. Boh, ne ho guardato un paio l'altro giorno, non so se ci sia anche quello lì, spezzoni ho visto più che altro, perché c'erano un sacco di cose, ma fanno a me, guarda, fino alle coppie mi piacciono, però sono molto ripetitivi, poi molte volte fanno cose di tutta roba organizzata da altri, c'hanno quelli che li scrivono, questi invece ce li studiano loro, proprio sembra che tu sei in un ambiente di Sassarivecchio, di cose, cioè cose molto spontanee, ti vedi, raccontano fatti di cronaca, di Gionfra, cosa, quello invece è tutto, quando andavano a coso, a Colorado, a Zelli, che era tutto scritto, coso, bello sì, però alla fine sono anche niente di nuovo, diciamo, hanno fatto. Ma già lo so, vabbè, Colorado. Non è che capisco neanche le battute in sassarese, quindi devo limitare un po' anche da tempo così a banco. No, tutti i cosi che sta facendo. Praticamente sta quello chiaro notturno. Coso è Claudio Rotunno, non so se lo conosci, quello che fa Lubigliani Baruguro, lo fanno a pezzi, lo fanno quello che esce con gli slogan, con Visa Smart, color oro, via e Baruguro Edo, ma cioè cazzo, scacciati dalle risate, ciao poveri. Qualche pezzo già l'ho visto. No, sono bravi anche loro, perché hanno fatto la scuola, siccome il fratello di un amico mio era con loro, sono stati tanti anni, poi non ho capito perché Fara, Roberto Fara, se n'è andato o se l'hanno mandato, non so, adesso sono rimasti loro due, solo i due fratelli. Allora, sono stati a Bologna per un paio di anni studiando all'Accademia dell'arte cinematografica, proprio studiando le battute, le cose, hanno fatto la scuola, un bel di là. Mi stai dicendo, non gli davano niente, mi pare gli davano 500 euro a puntata, quando andavano a coso, a quel programma Colorado, due convinti, chissà il soldiano, niente di niente, se li dovranno dividere. Ah, per carità, oh Giulia, ma stai dicendo io, il coso, fino agli anticorpi, stai dicendo? Appena gli anticorpi, secondo me sono una coppia povera, che certo stanno cercando di inventare qualcosa di cosa, di Aldo, Giovanni e Giacomo, prima quando erano in tre erano, quando facevano gli animali, il corvo, il coso, cercavano molte cose da, come spunto, vabbè, hanno trovato cosa. Poi il numero uno è sempre Benito Urgu, non so se tu l'hai visto, Benito Urgu l'ho conosciuto di persona, ha fatto uno spettacolo per un gruppo di persone quando eravamo al lavoro, perché ci hanno invitato, la Fiat, e ce l'ha fatto a noi apposta, siamo state 30 persone, lui era apposta per noi, e c'era un pianoforte, una tastiera, dai, cantava, tu dovevi cantare, tu mettevi le mani in testa, e poi faceva le battute, cioè noi chiedevamo le cose e lui le faceva, non è come andare a un concerto che fa tutto il programma, di lì era tutto improvvisato, ma tu se lo vedi cantare in inglese, un mostro, cantando di canzoni di un certo livello, no cagate, cose che dice vuole anche voce, era un mostro. Turgo, Turgo, padre di padre. È un artista, siamo un po' anzianotto, Bruedo. Non so se ci sia arrivato a 80, ma siamo lì, a grandicello. C'è la tipa cubana che poi prima ce n'aveva una e poi si è portato con la figliola. Però è una persona molto molto di cultura, non è, sembra tutto, lo vedi tutto ignorante, se lo senti parlare è una persona molto molto preparato, c'ha grandi esperienze, lui ha iniziato con i Barritas, col circo Zanfretta, cioè facevano i coso, quegli spettacoli itineranti, è una persona che c'è una vita nello spettacolo, poi adesso è grandicello, non sta facendo più niente, però è un grande grande personaggio, un artista, diciamo. Ok, vediamo se è entrato Luca. 1939, 32, no, 82 anni già. Te la giudico, c'erano tanti anni, era grandicello lui. La moglie è molto molto più giovane, lui ci avrà, io penso, 30 anni meno di lui. Se non 30, 25, abbondanti ce l'ha. Oh, Marco, io devo fare cosa adesso, ti saluto, grazie della chiacchierata, ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao, saluto anche qua eventuali ascoltatori su canale 10. Ciao Luca, se ci sei, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo. Ciao Robè, ciao, io mi stavo cambiando, dai, che tra un po' usciamo. Capo, no, non ci sono a Costantino, ma no, stanotte a casa. Ti riposi, dai, anche se te la rotonda dopo. E forse siamo andati sì. E io sai cos'è, tu devi fare la prossima volta, un giorno sei lì e un'altra volta te ne va la rotonda. sei speciale, tu che fai un po' di gatto. Mamma mia, c'è un po' di gatto stasera. Ho aperto l'ombrello alla fermata del traffico. L'ombrellone ho aperto così, a tipo baracqua. Già c'ha. Ah, avete aperto l'ombrellone? Allora, muriamo a Uganda, tipo baracqua raggio trattato. Come va tu, via? Vabbè, sono stanco, però vabbè. Sono a moto, non vado, due amici, mi porto a Torres. Mi sta a salutare, siamo un po' lì, al fresco, qualche birretta e poi ci andiamo a casa. Fatta bene. Aspetta un attimo, vado a mettermi le mutande. Scusate, con la benzina, pura. Allora, dopo culo cose, come un gaglio a penzuloni. Oi, a me, Cristian. Ho sentito la prima, Cappa! Cosa Luca con il mangaglio fuori? Ma non ti interessa? Ma io li conosco da guarda, mi sa, uno dall'asilo. Capo, c'è un po' basso se, no? Sei in campagna. Vedi, non so se sono da parte, che... Ma c'è un po' per la senza la nuova, non la passa rasso. Che la paga, lui a me, andiamo a me. Ah, tutto e metti dromo a che c'ho col tracco, stanco proprio. E domani a mezzano sono a un buco, che devo andare a travagliare. Fai bene, a me è stata martedì, non è stata a lavorare. Io. Cabba, che cosa devo fare? Piano piano si travaglia. Buonanotte Chris, ci sentiamo. Buonanotte, è chiaro. E buon lavoro per domani. Cabba, speriamo bene, dai. Ciao ciao. Ah, Chris era. Ehi, a chi non lo intendi tu? Ehi, basso l'ho sentito. Però è più vicino tu. Arrivava basso, anzi, se vuoi ti dica. Mia mamma mia, mamma, se io già cenato, un panino che mi è rimasto da pranzo, con l'insalata, buona reggio era. Ciao, va, è fatto bello. Tu cenato, Ehi, ho fatto la pasta asciutta. Va bene, dai. Ciao, andava. Mamma mia, mamma, che bella rietta fresca che c'è qua, mamma mia. Cappa, ma la volevo fare sana perché ci ho fatta io, vabbè, già andavo per un martese. E io se vuoi fare una pasta asciutta, ho diploma. Cappa. Ehi, vabbè, non avevo lo diploma, ho sempre cucinato poi io. Ah, io già mi arrangio, tu. Cappa, cappa. Uia. E ci aveva messo il gocco perché sono c'è un po' di sonno. Sì, allora, andate, tanto sbagliata, sto uscendo dalla doccia, si cambia, usciamo. Andate, ciao Antu, ciao anche a Sara. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Saluto nuovamente a Cristian, ciao. Sì, buonanotte a tutti anche da parte mia, ciao. Ciao, ciao.